Io sono in questo commercio da sempre. Pensi che aiutavo mia madre dopo la scuola quando avevo solo 6 anni e la imitavo. Lei non si limitava solo a vendere libri. No, lei aiutava i bambini a diventare quello che poi sarebbero diventati. Perché se leggi un libro da piccolo diventa parte di te, come non succederà mai con altre letture. E io sono partita in quarta, Si può fare. Cronache da un paese migliore, di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, buona domenica da Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si può fare, insieme fino alle 11, una occhiata veloce ancora ai giornali, alle prime pagine dei giornali di oggi, per chi non avesse già sentito la rassegna stampa più approfondita fatta un'oretta fa circa dalla nostra Giulia Crivelli, poi dopo il giornale radio delle 9, cominceremo con i nostri interventi, le nostre interviste, gli approfondimenti, le buone notizie. Oggi parleremo con l'amministratore delegato di Cinecittà a Roma, che sta vivendo una rinascita, un fatto positivo non solo per Roma e per gli stabilimenti storici del cinema nella capitale, ma un po' per tutto il paese. Insomma, 007 è stato girato non a Cinecittà ma a Roma, lo sappiamo tutti, fino a pochi giorni fa. Poi adesso c'è Ben Hur, ci sono grandi produzioni importanti anche americane, insomma, che fanno girare anche l'economia del cinema nel nostro paese. Questo dopo il giornale delle 9. Adesso iniziamo subito con i giornali, vai! Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, giornali di oggi, la storica stretta di mano tra Castro, Raul e Obama, naturalmente la foto c'è su quasi tutti i giornali. Insomma, la ripresa di un dialogo dopo 50 anni di guerra fredda, insomma l'ultima, forse una delle ultimissime code della guerra fredda questa. Poi insomma qualche intervista, quella al ministro Del Rio su Repubblica, notizie che riguardano l'economia dopo il varo del DEF e altre cose insomma sui giornali di oggi. Cominciamo col Corriere. Cuba, Obama batte il muro, la foto appunto con la stretta di mano tra Raul Castro e Barack Obama. Obama ha detto: vogliamo stabilire relazioni diplomatiche con Cuba, chiederò al Congresso di togliere l'embargo. Mentre Raul Castro ha insomma ringraziato Obama, ha detto: è un uomo onesto, non ha colpa per quello che hanno fatto i suoi predecessori. Invece, sempre sul Corriere, un'altra notizia importante è insomma sempre relativa alla strage avvenuta al Tribunale di Milano, da opera di Claudio Giardiello. Sviene e vaneggia giallo sul malore del killer al Milano. Durante l'interrogatorio nel carcere di Monza, infatti, Giardiello, proprio all'inizio dell'interrogatorio, guarda caso, è insomma svenuto, ha cominciato a far fugliare. Forse vuol diciamo una lettura maliziosa, maligna potrebbe essere, vuol passare per matto, per semplificare. Insomma, questo lo può sapere soltanto chi in queste ore è lì vicino a chi sta indagando, ai magistrati, agli psichiatri, eccetera eccetera. Questo è quello che è accaduto però al carcere di Monza. A proposito però di questa notizia, su un altro giornale, su Repubblica, c'è l'intervista alla mamma dell'avvocato Lorenzo Clari Sappiani, la signora Alberta, che avete visto in molti telegiornali durante una conferenza stampa in cui insomma ricordava il figlio con le lacrime agli occhi e insomma ricordava anche lo spirito orgoglioso e quasi baldanzoso col quale il figlio andava in tribunale praticamente a testimoniare contro un suo ex cliente, a prendere le distanze da Giardiello e in un ruolo scomodo senza avere paura. Lei però adesso lancia un allarme: mio figlio ha tirato in una trappola, cambiamo la legge sul porto d'armi. Quanti casi, dice la signora Alberta, quanti omicidi vengono commessi ogni anno da chi aveva un'arma tra virgolette legalmente detenuta? legalmente, perché sappiamo la questione del porto d'armi per uso sportivo, che non autorizza andare in giro con un'arma, ma che di fatto poi diventa un via libera, un permesso non permesso. Qui tutti descrivono Giardiello, dice la signora Alberta, come una persona provata, agitata, capace di piazzate. Una volta i falliti non potevano nemmeno votare, perdevano i diritti civili. Perciò la domanda è semplice: a uno così, chi ha lasciato un'arma in mano? Come è potuto accadere? Poi il giornalista ricorda che Giardiello aveva alle spalle addirittura una condanna in primo grado per molestie a una donna. E questo, dice la signora Alberta, rende i contorni ancora più gravi. Speriamo che magistrati, politici, esperti di diritto, avvocati riflettano sul porto d'armi facili. E come darle torto? Come darle torto? Per quanto riguarda invece la politica, tornando sul Corriere, Corriere si occupa di quello che sta accadendo in Puglia, nel centrodestra. In Puglia Berlusconi lancia Poli Bortone, ma è caos, perché Fratelli d'Italia, che inizialmente aveva detto di sostenere la candidatura della Poli Bortone alla presidenza della Puglia, si sta quasi sfilando, dice la candidatura è ancora al vaglio, mentre Fitto attacca duro, io non prendo ordini da nessuno, resto nel partito. Però così Silvio preferisce la linea del cupio dissolvi, ha usato questa espressione Fitto, abbastanza significativa e forte per prendere forse definitivamente le distanze, chi lo sa, da Berlusconi. È il Corriere che poi si incarica con una foto storica del 2000 di ricordarci che fine ha fatto il centrodestra di questi anni, perché la foto risale alla Fiera del Levante di Bari del 2000, del settembre del 2000, sono passati diversi anni, ma insomma fa impressione vederla, adesso ve la descrivo, quando si festeggia, si celebrava la convention della Casa delle Libertà. Da sinistra a destra c'erano Rocco Buttiglione, tutti con una bottiglia, un bicchiere di spumante che brindano, Bossi, Berlusconi, Fini, Fitto e Casini. Di tutti questi non ce n'è più uno che sia alleato con l'altro, praticamente la frana del centrodestra di questi ultimi anni. Andiamo su altri giornali, per esempio su dove volevo andare, qua non trovo più nulla, ecco, sul Giornale, un altro titolo diverso che se la prende con il DEF e con, sapete, venerdì il governo ha varato il DEF, tutti i numeri della finanza pubblica, si parla di un tesoretto da 1,6 miliardi di euro, ma il Giornale scrive: la truffa del tesoretto, arrivano 63 miliardi di tasse, saltano le clausole di salvaguardia, il DEF ha messo a bilancio una mazzata triennale. Si tratta appunto di che cosa? Di questo. Nel 2017 ci sarebbero 19 miliardi di nuove tasse, aumento dell'IVA e delle accise da disinnescare, 22 miliardi nei due anni successivi, sono circa 63 miliardi di tasse in tre anni, le famose clausole. E insomma è una preoccupazione che c'è naturalmente, e questo è quello che riporta il Giornale. Invece Repubblica c'è un'intervista al ministro Graziano Del Rio sulle grandi opere. Qua però prima dobbiamo farla la good news, perché c'è una buona notizia. Vai. And now the good news. Allora, parlare bene del governo in carica si rischia sempre di passare da giullari, però quando una cosa è fatta bene bisogna dirlo. In questo caso la lista di grandi opere del ministro Del Rio, neo ministro delle infrastrutture, una lista ridotta da 50 che erano a 25, ma da 400 che sono state solo fino a qualche anno fa a 25 grandi opere, è un fatto positivo. Si decide su cosa puntare, si investono le poche fisci, pochi miliardi che ci sono, su alcune grandi opere. Questa è pianificazione. Il resto sono promesse elettorali. E poi le scelte fatte dal Del Rio, se verranno confermate, potrò essere smentito, ma puntare sulle ferrovie, sulla spesa per le linee dell'alta velocità, per i pendolari, per la TAV, piuttosto che per costruire il raddoppio dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, è una scelta giustissima, più che legittima, perché insomma, più che di nuove autostrade, la Livorno-Civitavecchia sarebbe un raddoppio di una superstrada che funziona benissimo, per esempio. C'è bisogno di rafforzare il traffico dei pendolari sulle ferrovie, lo sappiamo benissimo. Ecco, questo nella pianificazione del Rio c'è. Poi staremo a vedere, magari saremo smentiti, ma diciamo, il punto di partenza è positivo. Adesso usciamo dalla Good News perché c'è l'intervista a Del Rio. Intervista su Repubblica nella quale si commenta questa notizia e per commentarla Del Rio sceglie di puntare soprattutto su un altro aspetto: basta con l'emergenza e con le grandi opere, solo così possiamo battere la corruzione. È una scelta che Del Rio propone questa, anche in termini appunto di diminuire gli spazi per la corruzione, perché ci ricorda che negli ultimi 14 anni di legge obiettivo erano stati stanziati 285 miliardi per le grandi opere, ne sono stati spesi solo 23, l'8%. Il resto o non sono stati spesi o sono stati mangiati e macinati, come nel caso di grandi cose di corruzione tipo il Mose, dove ci sono stati aumenti di spese e sperperi folli. Dice Del Rio: quando Renzi ha deciso che questa cosa dovessi prenderla io, il Ministero delle Infrastrutture, mi ha detto che la nostra priorità deve essere la crescita, un obiettivo che passa anche dalla capacità di mandare avanti i cantieri, ma il tema vero è uscire dalla logica delle emergenze, delle procedure straordinarie e rientrare nella normalità. Ecco, la nostra sarà una rivoluzione della normalità, procedure europee, regole semplici sugli appalti, programmazione, coinvolgimento dei territori. Questo è il metodo e il contenuto, l'ho già detto prima, è una drastica riduzione del numero delle grandi opere, puntando soprattutto sulle ferrovie e sulle linee metropolitane nelle grandi città, altra cosa fondamentale che tutti vivono tutti i giorni, lasciando fuori qualche infrastruttura autostradale, di quelle poi magari fatte con la sabbia nei piloni, come è accaduto ieri sulla Catania-Palermo, che un pilone ha ceduto e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. C'è il traffico, ci fermiamo, torniamo tra un attimo. Eccoci qua, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, di nuovo in diretta con Si può fare. Un'ultima notizia al Sole 24 Ore di oggi, prima di andare sul domenicale come sempre a quest'ora, una notizia importante perché Jobs Act dietro front sull'aumento dei contributi. Dopo l'intervento di Renzi, Poletti assicura la clausola di salvaguardia sarà cancellata. In pratica, da una prima stesura dei decreti attuativi del Jobs Act sembrava che a pagare la decontribuzione dei neoassunti fossero indirettamente sempre le imprese, una cosa diciamo un po' incomprensibile. C'è stata una retromarcia e questa cosa non avverrà. Il commento di Fabrizio Forché è: se l'Italia non sa fare più le leggi, perché insomma in un'interpretazione non maligna, non maliziosa, quantomeno la legge era stata scritta male, proprio con degli errori all'interno, e quindi diciamo anche una legge definita buona anche dalle imprese come il Jobs Act rischiava di essere vanificata da errori. Almeno su questo c'è stata una retromarcia. Adesso però è il momento di dare il buongiorno e il benvenuto ad Armando Massarenti. Ciao Armando. Buongiorno, buona domenica. Eccoci qua, curatore responsabile, direttore del Domenicale, del Setto Culturale, del Sole 24 Ore. Armando, dove ci porti quest'oggi? Ma forse visto che siamo così vicini all'anniversario, anzi ai due anniversari, uno della morte vicinissimo di Albert Einstein e l'altro della sua grande scoperta, la relatività generale, e noi abbiamo pensato bene di far scrivere a Carlo Rovelli, questo grande fisico, nostro collaboratore, un articolo in cui ci dica quali sono le idee che veramente importanti, grandi, e non è una sola, ecco, non è solo la relatività generale, sono cinque idee che vi descrive molto bene questo articolo che abbiamo intitolato Infinitamente Grande. Tra l'altro mi fa piacere ricordare che Carlo Rovelli è praticamente in cima alle classifiche delle vendite dei libri con le sue sette lezioni sulla fisica della Delphi, che è diventato un best seller e che praticamente raccoglie articoli tipo questo che abbiamo pubblicato oggi sulla domenica. E però abbiamo voluto aprire in realtà il domenicale non proprio con questo articolo di Rovelli, che invece è nelle pagine interne, ma con una cosa un pochino più che fa pensare, perché Einstein, che praticamente è stato un grandissimo pacifista, un fisico che aveva bene in mente che cosa deve essere, che cos'è l'etica e la politica della scienza, non tutti i suoi colleghi, anzi c'è l'articolo di apertura che parla proprio della zona grigia Hitler e i fisici della zona grigia, cioè come quella della zona grigia, andiamo a quella di Primo Levi, cioè tutti quei fisici che quando Hitler è andato al potere o erano direttamente schiettamente antisemiti e diciamo pure solidali con il regime nazista, e altri che invece erano più ambigui e diciamo dietro un'idea di neutralità, ma tra questi ci sono anche nomi importantissimi come Max Planck e Heisenberg, insomma tutti i premi Nobel sono quelli di cui si parla in questo articolo di Vincenzo Barone, sì. Ed è un libro che esce in questi giorni per Einaudi, Philip Ball al servizio del Reich, come la fisica vendette l'anima a Hitler. Quindi insomma una bella riflessione di storia della scienza, ma anche dei rapporti che appunto la fisica e la scienza può avere sia nella grandezza di Einstein, che ha dimostrato appunto sia con il suo pacifismo, la sua eticità, la sua grandezza in tutti i campi di cui si è occupato, sia invece laddove dietro un'idea così di neutralità si rinuncia a fare una politica della scienza che poi è anche una politica per l'umanità. Ecco, quindi questo, la copertina è una pagina interna del domenicale. Poi possiamo fare così un pochino una carrellata di alcune altre cose. Troviamo per esempio Salvatore Carruba, che è stato a New York e ha visto una serie di mostre molto interessanti di Lincoln, presidente americano, a 150 anni dal giorno in cui fu assassinato, e soprattutto si sottolinea la grandezza di Lincoln come oratore e anche la sua brevità. Ecco, questa è un'altra fissazione che abbiamo noi del domenicale, no? Le forme brevi. Ecco, i discorsi alla Morgan Library di New York si mostrano soprattutto questi discorsi brevissimi che hanno fatto la storia, che hanno cambiato completamente l'America in pochissime righe, siamo in 20 righe, ecco, se dovessimo dire, una specie di dispaccio di agenzia, ma in realtà discorsi scritti molto bene, di grandissima efficacia. Questo è appunto Salvatore Carruba sulle mostre che ricordano in America la grande figura di Lincoln. Poi sappiamo, insomma, anche la famosa marcia, ecco, che si arriva poi alla marcia dei diritti civili, cui è stato dedicato il film recentemente Selma su Martin Luther King. E poi ci sono, allora, se vogliamo passare alla terza pagina, vabbè, c'è un bel intervento di Andrea Carandini, presidente del FAI, il Fondo Ambientale Italiano, perché ci sarà insieme al ministro Franceschini il 17 aprile al Quirinale il convegno del FAI che titolerà Per sempre, per tutti, spunti e proposte per una politica più umana dei beni culturali. Qui torniamo alla querela e alla nostra presa di posizione. Noi condividiamo molto la posizione di Carandini sul fatto che una gestione privata, se ben congegnata, può risolvere vari problemi che riguardano i beni culturali. Sì, ne abbiamo parlato molto anche noi, per esempio della Fondazione Torino Musei, per esempio, che ne è un esempio. Assolutamente, sì, esatto. La riapertura anche adesso, infatti domenica scorsa avevamo la riapertura del Museo Egizio, certo, che è un esempio che noi abbiamo sempre seguito fin dall'inizio, tra l'altro anche invitando l'anno scorso agli Stati Generali della Cultura il nuovo direttore, che è proprio un esempio appunto di come bisogna mettere le competenze al posto giusto, al posto di chi poi decide e quindi fa le cose molto bene. Io mi sono esercitato in una piccola riflessione che parte da un libro uscito in questi giorni, Eugenio Le Caldano, uno dei più importanti filosofi morali italiani, che ha fatto un libro che si chiama Senza Dio, che non è per niente una provocazione, è semplicemente la traduzione della parola ateo, calcata appunto sul greco. E la domanda filosofica che io faccio nella mia rubrica Filosofia Minima a partire da Le Caldano, sì, è se venga prima, se l'etica e la religione debbano essere per forza collegate tra loro, oppure come sostengono ovviamente tutti gli atei di cui parla Le Caldano, che invece viene prima l'etica e poi semmai la religione. Cioè noi vogliamo essere persone responsabili. Siamo in chiusura. Grazie comunque Armando Massarenti. Tutto questo lo trovate sul domenicale di oggi, correte in edicola. Noi ci risentiamo dopo il giornale radio delle 9, più tardi con Si può fare. si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. Eccoci qua, buongiorno, buongiorno cari ascoltatori da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buona domenica a tutti. Ascoltatori di Si Può Fare, unitevi, 800 24 0024, vi aspettiamo per intervenire in diretta naturalmente, come ogni sabato e domenica mattina 8.30, 11. È stata una serata Carlo. Durissima, scusami, mi vedi un po' affannato? Sei combinato? Mi si è rotta la lavatrice, posso dirlo così con questo. E il giorno prima di partire per giustamente mi hai detto che non posso chiamarlo book tour, quindi sì. Per il giro di presentazione del mio libro, mi si rompe la lavatrice, quindi non so cosa dire. Facciamo un appello se c'è qualche tecnico bravo in zona Savona, possiamo dire? Ah, in zona Milano tu dici? Milano. No, piuttosto qualcuno che ha Savona magari mi porti una maglietta, oppure devo dire non. Beh, venite a Savona alla presentazione. Perché forse puzzerò un po'. Basta un negozio, vai in un H&M. Che infatti questa settimana ha inaugurato la linea ecosostenibile, per esempio. Ah, sì? Sì, sì. Vedi, subito con la notizia. Sei notizia. Proprio un giornalista e io sono proprio un. Siamo sempre pronti. Non lo dico. Senti, stamattina ho visto una bella cosa. Sono uscito di casa, ho fatto 5 passi. Mi giro, vedo due ragazze che su due scalette sì. Che dipingevano fiori su un muro di cinta della ferrovia, che una ferrovia abbandonata che passa lì vicino dietro casa mia, in via Savona, siamo in zona via Savona a Milano, 7:30 di domenica mattina, invece di dormire dopo il sabato sera, dopo le feste, queste due stavano dipingendo fiori. Bello, si può fare, perfetto. Mettete dei fiori sulle vostre cancellate. Sì. E a proposito, guarda i disegni, forse è il momento proprio su Milano. Ieri addirittura ho fatto quasi l'inviato con il mio Periscope, quindi dal mio account Twitter. E in via Bezzecca, Milano, che è più o meno zona 5 giornate, su un enorme palazzo si stava disegnando un enorme graffito che ho documentato con Periscope, ho visto mostrandolo. Forse. Ho visto qualcun altro, è un bianco e nero. Esatto, molto con un bello, cuore rosso. Bello. E poi di sera verso le 11:30 sono di nuovo passato, sì. Ammetto casualmente, per quella zona e ho anche postato la foto con l'opera completa finita, quindi ho proprio fatto l'inviato ieri, volevo dirti. Benissimo, cari ascoltatori, dopo aver raccontato un po' di cose nostre così. Però senza, la questione della lavatrice è importante, perché in realtà io avrei un sacco di domande, sì. Che non posso fare, immagino, perché un po' d'acqua mi è entrata, adesso cos'è? Diventerà tutto muffo, che cosa devo fare? Non lo so, sono in enormi ambasce, cioè, la domenica. Tu vorresti che qualche ascoltatore ti desse una mano a uscire da questo, sì, problema della lavatrice. Sì, esatto. C'è chi se ne intende un po', esatto. Ci chiami e magari ci dà una mano, perfetto, un consiglio che può essere utile, perfetto, anche per altri. Alla scuola anch'io ho avuto problemi con la lavatrice qualche tempo fa, poi ho risolto. Si è aggiustata da sola. Ah, non so. Sì? Come c'è, perché io non sono molto pratico. Sarà che avevo una donna di servizio che devo confessare questa cosa. La mia donna di servizio, sì, se n'è andata perché è andata a vivere a New York e io gli ho detto, ho sempre pensato di pagarla troppo, fuga però così tanto non pensavo e quindi sono solo come uno stronzo, allora, se si può dire. No, era meglio non dirlo, no. Però ormai l'hai detto. Allora, cari ascoltatori, anche oggi giochiamo naturalmente e cerchiamo un personaggio della settimana all'800 24 00 24. Ed è un idraulico quello che cerchiamo. Il personaggio della settimana è un idraulico. Ma non bruciare così possibili risposte. Allora, no, non scherziamo. Il personaggio della settimana, si vincono i biglietti, tra l'altro diciamolo, per il concerto di Enrico Ruggeri, come già ieri, come è stato anche nel programma al Sabato del Villaggio di Marta Cagnola, fino alla scorsa settimana, adesso il testimone passa a noi, biglietti di Enrico Ruggeri, dovete rispondere e trovare un personaggio della settimana il cui primo indizio che diamo è questo. Parliamo di una impresa. Così, mettiamola, perfetto, così. Perfetto, perfetto. Un po' largo ed un po' stretto. 800 24 00 24. Tra poco parliamo di Cinecittà, del rilancio. Tu sei anche un attore, Carlo, hai fatto diversi film. Parliamo di questa rinascita di Cinecittà. È un tema ricorrente, ogni tanto se ne parla, però in effetti sembra che ci siamo veramente, perché ci sono una serie di grandi produzioni, anche hollywoodiane, che sono tornate proprio a Cinecittà, negli stabilimenti dove si faceva il grande cinema italiano. E e questa è una buona notizia, perché insomma è un modo anche per far girare l'economia di tutti quelli che ci lavorano, perché non sono soltanto gli attori, ma produttori, registi, scenografi, fotografi, cameraman, eccetera eccetera. Ce l'abbiamo l'audio della Cucinotta a proposito? Sì, voglio farti sentire questo audio qua di Maria Grazia Cucinotta, che mentre stava facendo un film a Pavia, un film prodotto da cinesi, c'era una protesta a proposito di Italia, resto del mondo, da parte di un po' di gente che passava di lì per proprio per la presenza dei cinesi. Sentite cosa ha risposto lei. Cucinotta, lei si considera una delle tante eccellenze italiane sottratte all'Italia e inviate in Cina? Beh, no, perché io comunque resto in Italia, questo è soltanto uno scambio culturale. Questo film sottolinea proprio il fatto che i cinesi non vogliono assolutamente cinesizzare tutta l'Italia. Ma diverse eccellenze italiane le stanno acquistando, no? La Pirelli adesso stanno trattando per il Milan. Diciamo che stanno aiutando l'economia italiana a non cascare ancora più giù, visto che loro economicamente ci possono sostenere. Quindi ben venga questo. Fellini, Rota, Mastroianni, Magni, Manfredi, Trovaioli, la Lollo Brigida, la Totò, Magnani e Pasolini, Pesica, Scola e Monicelli, Anita Ekberg, La Dolce Vita, poi Cinecittà. Cinema, luci e misteri di Cinecittà, e stretti stretti nella notte in una sala in mezzo al cielo il nostro film sarà. Eccoci qua con questa Paola Turci che interpreta Luci e Misteri di Cinecittà. Paola Turci, che tra l'altro forse sarà nostra ospite una delle prossime domeniche. Salutiamo, diamo la buona domenica a Giuseppe Basso, amministratore delegato di Cinecittà Studios. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Un piacere averla con noi, con questa diciamo introduzione musicale. Intanto ha sentito la Cucinotta, questa cosa sui cinesi? Sì, credo che i cinesi saranno ancora abbastanza per il momento lontani da Cinecittà dal punto di vista produttivo. Stanno realizzando delle grandi strutture nel loro paese, come fanno di solito, insomma, quindi ogni tanto vengono a visitarci delle delegazioni. Ma com'è la Cina nel cinema? Faccio una domanda da ignorante, insomma, nella materia, perché sappiamo l'India per esempio si è affacciata alla grande con Bollywood e tantissime produzioni importanti. La Cina come va? Allora, la Cina non ha mai rappresentato nella nostra industria un riferimento importante, se non dal punto di vista autoriale, quindi nei festival, quindi dal punto di vista produttivo non l'abbiamo mai sentita come una presenza importante. Dal punto di vista poi distributivo, cioè dei film stranieri, sia soprattutto americani, che arrivano, è relativamente interessante, perché i margini di guadagno sui prezzi dei biglietti unitari sono molto molto ridotti, quindi è un mercato anche poco appetibile dal punto di vista internazionale. Ok, però sono tanti. Sì, sono tanti, quindi micro profitti per massimo volume di vendita. Questo diciamo può giocare a loro favore. Parliamo invece di voi, di Cinecittà, appunto. Quali sono le grandi produzioni? Perché insomma abbiamo visto fino a poco tempo fa, però non credo che Cinecittà fosse coinvolta. 007 che aveva invaso Roma come set proprio del... Insomma, sì, no, 007 ha usato come set la città di Roma, quindi molto si è appoggiato da noi per delle infrastrutture tecniche, diciamo, quindi attrezzerie dove sono state preparate le autovetture, macchine da presa. Ha preso gli studi grandi, diciamo, ha preso tutta Roma, non solo Cinecittà. Ha preso un teatro un po' più grandicello, diciamo. Il teatro più bello del mondo. Assolutamente sì. Anzi, in questo ho avuto già modo di dirlo qualche giorno fa, la grande bellezza ha dato una spinta, diciamo che c'è una convergenza di fattori in questo periodo, e secondo me è un bel momento, insomma, è un bel momento. Assolutamente sì. Per il cinema italiano. Sì, sì. Se voi me lo permettete di dare una piccola un piccolo, diciamo, correttivo sul vostro quotidiano che oggi è in edicola, dove dice che Cinecittà è un'azienda di Stato. In realtà, ecco, volevo solo specificare questo: Cinecittà è un'azienda privata, Cinecittà Studios, di quale della quale stiamo parlando, insomma, io sono l'amministratore delegato di Cinecittà Studios, è un'azienda privata con un 20% di partecipazione dello Stato, effettivamente tramite l'istituto Luce Cinecittà, quindi quella è un'altra Cinecittà, diciamo così. Ecco, volevo solo fare questo. Ah, ecco, no, questo è importante distinguerlo. Sì. Quindi, diciamo, l'istituto Luce Cinecittà è pubblico, e che cosa rappresenta invece rispetto a quello che fate voi? L'istituto Luce Cinecittà ha lo scopo di diffondere la cultura cinematografica italiana nel mondo, quindi partecipa a tutti quanti i festival, ed è inoltre la proprietaria, questo sì, del sito fisico di Cinecittà, via Tuscolana 1055, okay, al quale noi poi che paghiamo un affitto praticamente dal 1997. Quindi voi siete in pratica come possiamo dire, semplificando, una casa di produzione, siamo una società che fornisce produzioni e servizi alle grandi produzioni, sì, italiane e straniere, sia televisive che cinematografiche. In realtà siamo anche parte di un gruppo più ampio che si chiama Italian Entertainment Group, che nasce proprio da questa iniziativa Cinecittà e poi sale fino al creare una holding, dove dentro si concentrano, oltre a Cinecittà, che è un marchio importantissimo che ha dato origine a tutto questo, poi altre iniziative come la Filmaster, che è una più grande società di produzione di eventi e di spot pubblicitari in Italia ma anche nel mondo, la Civita Cultura da poco tempo, che è la società che gestisce tantissimi poli museali in Italia, e inoltre l'ultima nostra iniziativa economica è il Cinecittà World, il parco tematico sulla Pontina, che sempre, sì, nel vostro articolo oggi in edicola è citato. Senta, quando abbiamo deciso di occuparci, insomma, di Cinecittà, anche con i colleghi, con gli autori, qualcuno diceva sì, beh, però certo, Cinecittà, ok, ma ci sono anche altre realtà importanti, per esempio a BLS a Bolzano, che realizza molte fiction, è un centro nuovo che sta lavorando molto bene. Certo, quando parliamo di Cinecittà, però, c'è già un nome che evoca tutto un mondo. Questo sicuramente, diciamo, gioca a vostro favore nell'immaginario, ma quali sono i numeri dell'economia che muove, insomma, che segnalano la crescita di Cinecittà e il ritorno, speriamo, anche agli antichi fasti? Allora, Cinecittà intanto è uno dei più grandi centri di produzione europei, sicuramente il più grande al di sotto della linea della Manica, perché poi a Londra ci sono gli studi di Pinewood, Shepperton, Lavesden, che sono importanti, quindi è il più grande centro di produzione, diciamo, dell'Europa continentale e anche dell'area mediterranea, creata nel 1937 appunto con 20 teatri di posa, quindi un'organizzazione anche di personale diciamo a tempo indeterminato importante, forse la più importante dal punto di vista numerico, con oltre 110 addetti a tempo indeterminato, e che realizza, noleggia i teatri di posa i più suggestivi d'Europa, questo sì, forse non tra i più grandi ma sicuramente tra i più suggestivi, e realizza le grandi scenografie. Sì, integrata poi con altre società collegate facente parte del nostro gruppo, che è in grado di realizzare grandi progetti non soltanto per il cinema ma anche per esempio allestimenti museali. Qualcuno avrà letto che una delle nostre società, sempre Cinecittà Allestimenti, si è presa la briga di andare a realizzare delle strutture per l'Expo negli ultimi giorni, insomma. Quindi ecco, questo è il nostro aggregato, una realtà molto importante che viene cercata dalle grandi produzioni, perché sanno che da noi trovano una molteplicità di soluzioni tecniche. Cinecittà è stata creata nel 1937 per realizzare in Italia dei film che potessero far concorrenza ai film americani. L'esigenza era quella all'epoca di risolvere un problema dei produttori dipendenti, che non riuscivano a vendere ai cinema, non riuscivano a convincere gli esercenti, chiamiamoli così, a proiettare i film italiani. Luigi Freddi è un antico problema, sì, che tuttora rimane, giusto? È un punto, guardi, importante. Il tema del cinema è sempre lo stesso. Il tema del cinema è incredibile, ma dal 1934 ad oggi è quasi sempre il solito problema. Cioè, produzioni che non riescono a trovare una sala d'uscita. All'epoca l'80% dei film nelle sale era americano, e allora Luigi Freddi si interessò, cercò di capire come mai, e capì che i film americani piacevano di più al pubblico perché c'erano gli inseguimenti a cavallo, le sparatorie, facevano sognare un po' di più, diciamo così, gli spettatori. Sì. Allora si decise di migrare da una produzione di semplici commedie a produzioni più ambiziose, da un lato irrobustendo con delle normative, diciamo così, produttori indipendenti, permettendo loro di crescere e di produrre più film, e creando poi un luogo adesso sto sintetizzando nei tempi radiofonici, insomma, però creando un luogo di produzione che consentisse di far uscire tantissimi film ogni anno. Non lo ricordo bene adesso se nel 40 o nel 39, non me ne voglia nessuno, ci fu un record di produzione all'interno degli studi con 66 film, tutti in costume, con scenografie, che è una produzione incredibile rispetto a quella odierna. E oggi noi ci troviamo con lo stesso problema. Il problema del nostro cinema non è quello autoriale, che poi si deve adeguare, diciamo così, al box office. Il nostro problema è che noi in Italia, con i nostri 55-56 milioni di abitanti, cioè quasi gli stessi della Francia, abbiamo la metà degli schermi di proiezione della Francia. Quindi significa, per fare un esempio banale, come avere in un supermercato meno scaffali per esporre, cioè abbiamo meno schermi, nel senso ci sono meno fisicamente meno sale? No, diciamo che gli schermi, ogni sala può avere anche più schermi, no? Quindi qui per capire quante possibilità ci sono di proiettare un film, noi contiamo gli schermi, non le sale. Però sì, quindi c'è un problema di numero, insomma, ma a volte, almeno quello che si sente dire, c'è il problema addirittura di riempirle le sale, o no? Quindi non... Quello è il secondo problema, è quello culturale. Io credo che sta facendo questo governo, e dobbiamo ancora ringraziare anche il ministro Franceschini per questa iniziativa che ha preso nel miglioramento del tax credit, che ci ha consentito sia di attrarre produzioni internazionali, sia di dare uno slancio a quelle nazionali. Adesso la sfida è quella di educare le nostre nuove generazioni a godere del prodotto cinematografico. Cioè, noi abbiamo perso il gusto, il senso di andare al cinema. È vero che ci sono le sale vuote, è verissimo. Io, per esempio, cioè, cinema bisogna goderlo, lei dice, al cinema non si può, non c'è paragone. Non è possibile pensare, come per altri contenuti, a una fruizione legata a tablet, a cose di questo genere, che stanno sostituendo altri modi di fruire, che ne so, la televisione o la musica. Per il cinema questo non può valere, lo dice forse la parola stessa. Bisogna andare al cinema. Ma non solo, perché è più bello, diciamo, vedere il film al cinema, ma lì c'è proprio, adesso qui c'è proprio uno snodo importante, che secondo me è quello che ha portato poi a erodere gli utenti che vanno al cinema, cioè è lo snodo culturale. Il cinema deve essere interpretato, come è negli altri paesi, negli Stati Uniti, in Francia, un momento di aggregazione. Quindi si esce per andare al cinema insieme agli amici, poi prima o dopo si va a mangiare qualcosa insieme, si beve qualcosa insieme. Noi vederlo sul tablet è il massimo dell'isolamento, vederlo praticamente in televisione non è il massimo dell'isolamento, ma comunque un ambito ristretto. Ecco, questo snodo. Sì. E cosa c'è però che non, diciamo, che non funziona, per esempio anche nel confronto con la Francia, dove lei invece dice funziona meglio questo momento, diciamo, che riguarda la distribuzione, la pianificazione dei cinema, la possibilità di fruire dei film, eccetera. In Italia invece dov'è che le cose non funzionano come dovrebbero dal suo punto di vista, diciamo, di produttore di film? In Francia si è sempre creduto che l'industria cinematografica, come lo si è creduto in Italia in passato, come si sta tornando forse a crederlo oggi, sia un'industria strategica, culturale, e quindi la Francia ha sempre investito in questo. Intanto ha della legislazione che aiuta, per cui la TV deve alimentare il cinema, quindi c'è una modalità di finanziamento per cui la televisione deve in qualche modo cercare di finanziare la produzione cinematografica. Poi c'è un ampio investimento nelle nuove generazioni per poter godere di tutti i beni culturali e anche del cinema. Quindi in questa fruizione rientra anche il cinema. Un cinema che alle giovani generazioni deve essere proposto in maniera piacevole, cioè noi dobbiamo insegnare, non dobbiamo usare, io ritengo, questo è un mio pensiero personale, non, avendo anche due figlie in età scolare, 8 e 10 anni, non dobbiamo far vedere a questi ragazzi il cinema come qualcosa di estremamente culturale. Non dobbiamo usare il film per mandare il messaggio, dobbiamo semplicemente educare queste giovani generazioni a poter godere del prodotto cinematografico di qualsiasi tipo, dai cartoons alla commedia, alla fantascienza, al film drammatico, a qualsiasi cosa, perché così rimane strutturato in loro l'abitudine di andare al cinema nella loro vita. Quindi questo è un investimento anche a medio breve termine, perché se noi oggi educhiamo ragazzi che sono a scuola, che hanno 7, 8, 10, 12 anni, fra 3 anni saranno in grado di uscire da soli, o fra 5 anni saranno in grado di uscire da soli nel pomeriggio per andarsi a vedere un film. Tra l'altro, lasciando tranquilli anche i genitori, perché se uno va al cinema i genitori sono ecco, magari hanno tempo di fare altro. Ma le volevo chiedere una cosa. Lei giustamente diceva il problema del cinema è sempre stato questo, che il cinema americano era più appetibile da un certo punto di vista, e quello che mi chiedo è: Forse noi però non è che dobbiamo inseguire il cinema americano, cioè non è che dobbiamo, perché su quello un po' perdiamo comunque. Di solito il cinema italiano, quando si è riuscito a imporre, si è sempre riuscito a imporre facendo un tipo di cinema diverso, quindi non cercando di fare un inseguimento meglio di Fast and Furious, perché è molto difficile questo. E... ma noi culturalmente non ci appartiene Fast and Furious. Esatto. Se lei vede, se voi guardate gli ultimi film che stanno uscendo ad opera di giovani artisti, giovani registi e anche attori registi, io in particolare cito Alessandro Genovesi, che poi sta girando da noi gli ultimi suoi due film. È un mio carissimo amico, quindi lo salutiamo. No, tra l'altro è giusto ricordare che si girano anche questo tipo di film italiani a Cinecittà, non solo Ben Hur, non solo Zoolander, sì, esatto, queste cose qua. Ci sono queste cose. Poi al di là, adesso facciamo un discorso al di là di Cinecittà, che comunque richiede film che vengano pensati nei teatri di posa. Cinecittà è lo specchio di quello che succede nell'industria. Se l'industria richiede teatri di posa, significa che è un'industria che produce in maniera industriale, cioè una casa di produzione si mette in testa di produrre 10-12 film l'anno, non può essere soggetta alle variabili meteorologiche e così via, perché non avrebbe il modo di produrle. Quindi ecco perché nacquero gli studi, perché non ci doveva essere, diciamo così, il rischio meteo. Se voi vedete la produzione degli anni 50, film di Totò, le commedie italiane eccetera, tantissimi sono stati fatti dentro gli studi, e si vede anche sfacciatamente che certo, sono delle scenografie, perché Totò non poteva andare da un set all'altro con il rischio oggi piove, domani c'è il sole, e poi l'immagine non è la stessa. Si girava tutto in terra di posa, così si potevano produrre una massa di film incredibile. Parliamo di anni in cui in Italia si producevano quasi 250 film rispetto alla metà di oggi, quindi voglio dire, questo era l'ambito. Quanti sono i film che si producono oggi per esempio a Cinecittà in un anno? Allora, oggi l'industria nazionale arriva intorno ai 150, in qualche anno 160-165 film. In realtà, se noi andiamo a vedere le statistiche elaborate dall'associazione di categoria, dall'ANICA, vediamo che il budget medio di queste produzioni è assolutamente basso, si parla di 2 milioni medi di investimento per film. Mi sembrano film tanti. Io ho girato film dove ce n'erano molto meno di soldi. Ma te ti chiamano solo quando ci sono film imprese impossibili. Per dire. No, è vero che poi si può fare anche con mezzo milione un film. Questo assolutamente. Certo. Ci sono degli esempi notevoli che hanno anche vinto dei premi. Pensiamo a Sacro Graal, che non c'entra niente con Cinecittà, nel senso che proprio è il neorealismo, il nuovo neorealismo portato all'estremo, dove sicuramente il budget era stato più ridotto. Però, siccome facevamo l'esempio di Fast and Furious, sì, quello rientra in quel discorso della domanda che mi avete fatto, cioè che cosa significa produrre all'americana? L'americano significa produco il film, diciamo così, autoriale, impegnato su dei temi che non richiedono assolutamente la finzione, la realizzazione di strutture mega galattiche come può essere Ben Hur o un film di fantascienza. Però poi a un certo punto, per poter stare in piedi come industria, ho bisogno anche di attrarre una massa di persone che vogliono sognare, e quindi faccio il film di fantascienza, con gli effetti speciali. No, ma questo infatti è chiarissimo, e mi sembra, era un po' qua che volevo portarla per capire, perché in fondo film come Gomorra in realtà hanno aperto, è quasi un nuovo neorealismo un film come Gomorra, quindi mi chiedevo... Si parla di nuovo neorealismo. Esatto. Va bene, grazie a Giuseppe Basso, amministratore delegato di Cinecittà Studios, grazie per essere stato con noi. Insomma, la rinascita di Cinecittà ci fa piacere, ovviamente. Molto, molto. Insomma, poi il tipo di film, la qualità dei film che vengono girati, avete sentito, si sta un po', diciamo, a cavallo tra le grandi produzioni anche estere che hanno bisogno di set importanti e anche qualche piccolo film d'autore italiano, perché no? Ultimamente ce n'è parecchi di produzioni, ti confesso questa cosa, che dovevo, mi avevano chiamato per fare il provino di Zoolander 2, che è un mito. Io ho detto assoluto con Ben Stiller, ma siccome stavo scrivendo non sono andato a fare il provino, però insomma magari non mi avrebbero preso, però certo che non fare il provino di Zoolander 2 è proprio da stupidini. Allora, cari ascoltatori, intanto vi ricordo prima della pausa che stiamo cercando un personaggio anche della settimana, ed è stato protagonista di una impresa. Il primo indizio che abbiamo dato è questo: il personaggio della settimana è stato protagonista di una impresa. 800 24 00 24, aguzzate un po' l'ingegno e chiamateci subito. Torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini. Cari ascoltatori, abbiamo Luigi che ci chiama da Roma. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a lei. Buongiorno. Allora, cosa voleva intervenire Luigi? Volevo intervenire su Cinecittà, sì, un grande amore, sì. Perché come tutti i romani, ero ragazzo all'epoca, ero veramente giovane, è belloccio, quindi chiaramente la prima comparsa, ricordo ancora, la feci su Ponzio Pilato con Jean-Marie Jean-Crain, e era un sogno che avevamo un po' tanti a quell'epoca. Ora sapere che Cinecittà risorge, rinasce, quindi da dei sogni ancora a tanti giorni, a tante, spero che poi diventino realtà. Bene, io mi ricordo, era estate, faceva molto molto caldo. Che anno era? E c'era l'acquarolo, che gli anni 50. È 50-55. Intanto ha una bellissima voce, sembra un po' la voce di Pino Insegno. Non è che lei è Pino Insegno che ci sta facendo uno scherzo? No, magari. Guardi, guardi, io la ringrazio. Senti, si sta schiarendo la voce per farla venire fuori ancora meglio. Ma avevo un sogno veramente nel cassetto. Poi ho fatto qualcos'altro. Così. Ha fatto altro. È stata l'unica comparsata che ha fatto in un film? No. Feci un'altra cosa con Piero Zuffi, Colpo Rovente, con Carmelo Bene, quello sempre in quel periodo, anni fine 59-60. Ma sempre a Cinecittà? Poi, sempre sì. Solo, il mio amore è nato. Non dico morto perché ancora vive dentro di me, e le dirò una cosa, sì? Che da un paio d'anni è rinato in me questo sacro furore. Adesso non ho più 10 anni, 15 anni, 20 anni, però forse nella mia età così matura, chiamiamola così, io vorrei poter ritornare a, perché guardi, mi creda, sentire e calcare il set è qualcosa che ti rimane dentro, cioè non puoi più dimenticarlo, perché vibri. Io quando ho sentito parlare di Cinecittà, mi sono fermato, ho dovuto chiamare per forza. Meno io male. Senta, ma condivido pagavano, molto. Pagavano bene all'epoca queste comparsate, più di adesso? Ma, o no? Ho un tozzo di pane, si era soddisfatto. Per me era tanto, perché era un sogno. Quindi anche gratis, le giuro, anche gratis aver fatto. Ma soprattutto c'era una questione, nel senso che magari non è che pagassero tantissimo, ma c'era continuità, perché mi scusi, condivido in pieno la questione sul set, perché facendo l'attore anche per me il set è un posto assolutamente magico. Ho conosciuto diverse persone che facevano le comparse a Roma, e siccome c'era continuità, anche portando a casa magari non tanti soldi, questa cosa poteva essere un lavoro. Cioè ci sono persone che hanno fatto la comparsa a Cinecittà di lavoro, perché per potevano anni, lavorare sì, 20 sì, giorni al mese, non un giorno ogni 6 anni. La speranza è che si possa tornare adesso in qualche modo anche a quell'epoca lì. Grazie al nostro ascoltatore, a Luigi da Roma. Grazie mille. Per essere complimenti stato con per noi. La voce. Buongiorno. Complimenti per la bellissima voce, davvero. Ti leggo anche un messaggino che dice: a me si è rotta la lavastoviglie, almeno tu puoi portare i vestiti in lavanderia. E in effetti, io che posso fare? Porto le mie stoviglie in un ristorante chiedendogli un lavaggio. Leggo questo messaggio perché in effetti non ci avevo pensato, che è quasi peggio la lavastoviglie, perché non esiste un posto che ti lava i piatti. Siamo partiti dal fatto che mi si è rotta la lavatrice. Volevo anche ricordare che se ci fosse un idraulico che vuole chiamarci o qualcuno che vuole darmi dei consigli, può chiamarci all'800240024. Loredana da Milano, buongiorno. Non è un idraulico, no, immagino, no? Come? Non è un idraulico Loredana, non no, ha chiamato per questo. No. Se no era veramente pronto, era il pronto intervento, se no, veramente, perché appena l'ho detto, se subito era già in linea. Ah, prego, allora, prego. Don Dennis, che ha fatto il giro del mondo, il record del giro del mondo a piedi. Non ho capito la prima parola che ha detto, il nome del personaggio, credo. Chi è? Tom Dennis. Ok, che ha fatto? Ripeta la notizia. La corsa del giro del mondo, il giro del mondo di corsa in 20 mesi, mi sembra di ricordare. Probabilmente avrà capito dal mio tentennamento che non era lui il personaggio a cui avevamo pensato. Loredana. Adesso però voglio approfondire questa notizia, ce la spieghi meglio, perché sono veramente all'oscuro. Magari qualcuno che l'ha sentita dice: ma come, non sapete nulla? L'ho sentita in settimana, questo australiano. Sì. Corso, ha fatto il giro del mondo, 26.000 chilometri, qualcosa del genere, 24.000. Pazzesco, sì. A piedi in 20 mesi. Eccezionale. E lo ha completato, vivo? Sì, ha completato vivo. vivo. È un australiano che si chiama Tom Dennis. Ecco, vedi, Tom Dennis. Ci siamo documentati. Sì, sì. Beh, ma in effetti questo doveva essere il personaggio della settimana. Abbiamo sbagliato. Facciamo ammenda, come si dice? Peccato. Dovevamo dire, è uno di quei casi in cui gli ascoltatori ci danno delle indicazioni migliori, molto migliori. Ma il bello del quiz è esattamente questo, nel senso che è un modo per raccontare delle notizie, quindi anche quando vengono detti altri personaggi, sì, noi siamo ben contenti di dare in questo modo altre notizie. Potremmo anche, sulla base della disponibilità dei biglietti del concerto di Enrico Ruggeri, valutare di dare un premio ad onore a Loredana, come è successo force anche un'altra volta. Grazie. Intanto ce lo segniamo, anche buona perché domenica. Non è detto che ce la facciano a indovinare il personaggio. Esatto. È abbastanza difficile questa settimana. Ripetiamo l'indizio: è stato protagonista di una impresa. 800 24 00 24. Make a better place with my own two hands. Make a kinder place. Oh, with my own two hands. With my own two hands. With my own two hands. I can make a peace on earth with my own two hands, and I can clean up the earth, Lord, with my own two hands, and I can reach out to you, oh, with my own two hands, with my own two hands. Se vogliamo veramente trasformare l'Italia in un set cinematografico, come un po' come diceva l'amministratore delegato di Cinecittà Studios, dobbiamo tenerla bella pulita, in ordine, il paesaggio dell'Italia, insomma. E quindi arriviamo alla prossima storia, giusto, Carlo. Pensavo dicessi che dovevamo ascoltare più Ben Harper, ero contentissimo. Dobbiamo arrivare alla prossima storia, che sono le pulizie di primavera fatte negli antichi borghi, nei paesi, in campagna. Insomma, sono tante le iniziative da parte di gruppi di volontari, persone straordinarie. Stamattina c'è un esempio a Milano con la Maratona di Milano, ci sono moltissimi volontari che stanno dando una mano. Ma adesso andiamo a Buggiano Castello, per l'esattezza in piazza Pretorio, e diamo il buongiorno ad Antonio Disperati, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Buongiorno. Antonio fa parte dell'associazione culturale Buggiano Castello ed è tra gli organizzatori dell'iniziativa Giornata per Buggiano, che torna ogni anno. Cosa state facendo lì in piazza Pretorio e dintorni? Appunto, facciamo le pulizie di primavera. È diventato un appuntamento annuale organizzato già da 14 anni, da 15 anni, abbiamo saltato un anno. Sì. Un po' in ritardo sulla primavera o è una scelta? No, quest'anno è una scelta. No, perfetto. No, è una scelta. Vogliono essere sicuri che non piova quel giorno lì. Abbiamo previsto due date, ma per fortuna oggi è una bellissima giornata, sarà sufficiente. Senta, ma non sentiamo intorno i rumori dei rastrelli, della gente che urla, che porta via i sacchi? Mi sono spostato perché era veramente... E poi non potevo sentire la pubblicità di Radio 24, quindi... si è spostato, ma non credo. battuta di Antonio da Buggiano. Senta, ci ho provato. Sì. Giusto, giustissimo. Quindi ci racconti un po' questo borgo importante, visitato da tante persone ogni anno, perché? Ci tengo a dire che il nostro borgo è appunto un borgo medievale, ha una storia molto lunga, ovviamente come tanti castelli d'Italia. Ci sono molte organizzazioni in tutta la zona, molte organizzazioni di volontariato. La mia in particolare si occupa appunto di una tutela del paesaggio e di organizzazione di mostre e di convegni. Dal 1997 in particolare abbiamo trovato una nuova manifestazione, ci siamo inventati, che praticamente apre al pubblico i giardini privati del castello. Il nostro è un castello molto verde, nel senso che non è murato, pieno di case, di mura e di strade come tanti borghi medievali cintati. Quindi si viene proprio lì a respirare una boccata d'aria e a fare un tuffo nel passato. Ci sono molti stranieri, è stato apprezzato fin dagli anni 70 soprattutto dagli stranieri. C'è stato girato anche qualche film per caso, perché abbiamo cominciato parlando di Cinecittà, dell'Italia come set cinematografico. Oggi siamo set centrici. C'è stato mai fatto qualche film? Ci sono, sì, fiction. Spesso ne vengono fatti, sì. Però sono di produzioni locali o basso costo, non credo che siano, non ricordo che ci siano. Ma noi non disdegniamo, magari film noi d'autore. Uno con Pieraccioni, però qualche anno fa ci ha inquadrato come Castello, sì. Mi faccia dire una cosa, Antonio, c'è una notizia che dobbiamo dare perché è finito il Gran Premio a primo Hamilton, terzo Vettel, quindi insomma. Vabbè. È soddisfatto? Lei è un ferrarista, tifoso? Sì, seguo la Formula 1, quando era sulla Rai era più semplice. Sei stato meno fortunato di me, Alessio. Io l'ultima volta ho dato la vittoria in diretta da Ferrari dopo un sacco di tempo. Io solo il terzo posto. Scusa. Senta Antonio, e quanto va avanti questa giornata di pulizie di Buggiano Castello? Finirete facendo una mangiata tutti insieme? La giornata, quindi finiamo a fine mattinata, perché poi è diventato un modo per stare insieme, perché ripeto, la manifestazione più importante, e questo è la preparazione alla prossima manifestazione, ci sarà il 26 aprile e domenica 3 maggio, domenica 26 e domenica 3 maggio. Perfetto, diamo anche gli appuntamenti. Momento prologo di Antonio da Buggiano Castello. Sì, giusto, perché veramente molto apprezzata e ben organizzata, vale la pena. Quanti siete stamattina lì? Dunque, io ne ho contati una trentina. Beh, dai, un paese comunque piccolo. Dunque, il borgo, premetto che è abitato da 120 abitanti circa. Se siete un quarto, ci dobbiamo fermare qua perché abbiamo il giornale radio che incombe. Grazie Antonio, certo. Da Buggiano Castello, buone pulizie di primavera. Grazie mille. Arrivederci. Buona giornata, buona domenica. Abbiamo solo pochissimi secondi. Vogliamo dare un altro indizio per il personaggio? Aspettiamo, lo diamo dopo. Ripetiamo che ha compiuto un'impresa. Ha compiuto un'impresa e che non è un personaggio facile. A dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Porto nel cuore la mia libertà, a ogni costo la difenderò. Da tutto, da niente, da sempre, da mai, io la vita la prendo così. Amore, lo sai che verrò e che me ne andrò via da qui. E se mi perderò io lo farò per te. All'orizzonte nessuna città, solo nubi di polvere. E anche se solo deserto vedrò, fino a te io camminerò. E se la pioggia cadrà, ascolterò quel che dice, un uomo vivo comunque va, senza avere nessuna abitudine, senza avere nessuna pietà, come pietra lo sai, sto rotolando, nessuno mi fermerà, senza avere paura di aver vissuto, senza ombre nell'anima, dalla notte, dai lupi e dagli assassini, il tuo amore mi salverà. Questa è Si può fare, questa che avete ascoltato è Alla fine del mondo di Eros Ramazzotti. Questa è la canzone, diciamo il Si può fare in musica di Antonio Rizzo, perché per lui significa la forza che un uomo può trarre dall'amore per una donna. Vi ricordiamo che noi stiamo cercando i Si può fare in musica, sia che voi siate dei musicisti o dei compositori, potete mandarci delle canzoni che avete scritto ad hoc oppure che avete scritto per voi ma che hanno in qualche modo a che fare con Si può fare e rappresentano per voi Si può fare, oppure potete postarci delle canzoni note e famose, quello che secondo voi risponde bene a questa domanda. Dove potete farlo? Potete farlo sui nostri account social, quindi su Facebook Si può fare _24, oppure sul nostro account Twitter @SiPuoFare24, oppure sui nostri account personali. Il mio è @CarloGabardini e mio chiocciola Ale Maurizi. Tra l'altro stanno arrivando tante belle cose di autoproduzione musicale da parte di molti ascoltatori che faremo il CD, volevi dirlo? Sì, ci arriveremo prima o poi. Io voglio farlo il CD, Alessio, voglio fare il CD. 800240024. Cerchiamo anche un personaggio della settimana. Oggi siamo partiti, lo ricordo per chi ci segue soltanto da adesso, abbiamo parlato con il numero uno di Cinecittà Studios e da questa rinascita di Cinecittà in Italia. Una buona notizia per il cinema italiano, ma soprattutto per l'economia italiana, perché insomma questa è una industria, e anche per gli attori, abbastanza significativa. Si aprono dei provini, possibilità di provini, lo dico ai miei colleghi. Allora, abbiamo Francesco che ci chiama da Roma. Buongiorno. Buongiorno e buona domenica. Buongiorno, buona domenica a lei. Ho chiamato il personaggio, però lasciatemi dire brevemente una cosa su Cinecittà. Io sono nato a pochi metri dagli stabilimenti di Cinecittà e ricordo quando c'era la lavorazione di Ben-Hur, perché sono vecchio, di Ben-Hur e Cleopatra. Ma questo è bellissimo. Ci davano 5.000 lire al giorno più il cestino del pranzo. Quindi anche lei ha fatto la comparsa, cosa faceva? Ma certo, ero studente e per noi era una manna fare la comparsa, perché allora 5.000 lire erano tante. Certo, ma e la si vede in Ben-Hur? C'è una scena che ci può indicare? No, le comparse non difficilmente si vedono. Beh no, insomma, dipende, si vedono anche le comparse. Sì, però non si distinguono, non le fanno parlare, non si distinguono. No. Invece i generici sì. Lo so bene, guardi, sono iscritto all'Empals come generico. Francesco. Allora si vede. lei ha figli? Lei ha figli, Francesco? Ho poi una... Io? Sì. Sì, ho due figlie. Che età hanno, se glielo posso chiedere? 48 e 43. Son grandi, quindi spero che... Bisognava chiederlo alle figlie, lavoro, se si poteva dire la loro età. Un lavoro ce l'abbiano già. Le manderebbe a fare le comparse, però? Sì. Va bene, può essere insomma un... Era un lavoro tranquillo, a volte è faticoso, perché magari ti davano da vestirti d'antico romano in mezzo ai campi battuti dal sole di luglio, e quindi... E per 10 ore magari stai lì tante ore, sì. Nel ma cinema, scusi, si lavora 10 ore. Era più, Francesco, era più le 5.000 lire o l'avventura, l'idea di entrare nelle produzioni hollywoodiane, conoscere qualche l'avventura, vedere gli attori da vicino, era un'emozione, insomma. Attenzione, parliamo degli anni 50. Ma infatti è straordinario, è la prima volta che parlo con qualcuno che ha fatto Ben-Hur, posso dirlo? Ci deve chiamare più spesso. Abbiamo finalmente, abbiamo con noi al telefono uno che ha girato Ben-Hur. Vi dico solo questo aneddoto. Un giorno aiutavo mio fratello e mi disse: guarda, c'è questa rata della polizza di assicurazione, valla a incassare. E dico: dove? Dice: negli stabilimenti di Cinecittà. Ed era il fratello di Brazzi, che faceva il regista. Mentre aspettavo, perché stava girando una scena nella piscina di Cinecittà, mi sono visto arrivare due gambe che non le dimenticherò mai. E di chi erano? Angie Dixon. Non la conosco, Angie Dixon. Diciamo che ha capito subito che non era l'assicuratore. No. Va bene, Francesco. Senta, ci dica il personaggio. Ci dica il personaggio, però, perché sennò stiamo qua fino a domani mattina. Sì. Ci sono anche gli altri ascoltatori. C'era una grandissima scuola di scultori a Cinecittà. Bene. Grandissima, ce la invidiavano tutti. Allora, il personaggio che ho pensato è quello statunitense, quel velista che era uscito per una battuta di pesca. Si chiama Jordan, sì. È stato per 66 giorni la barca si è rovesciata e lui è rimasto aggrappato a questa barca, si è cibato di pesce crudo perché la Valenza l'ha salvata, e acqua piovana. Sì, ed è stato ritrovato miracolosamente tratto in salvo. È una bella storia, non era però lui il personaggio a cui avevamo pensato. Grazie mille, Francesco. Grazie mille, una bellissima chiamato, storia, sì. Un naufrago. Sì, naufrago e sushi, direi, giusto? Esatto. Tra poco daremo anche un altro indizio per avvicinare gli ascoltatori a questo personaggio protagonista di questa impresa. Antonio da Sassari, buongiorno. Salve, buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie mille. Allora, io avevo pensato il personaggio fosse quel ragazzo sedicenne inglese che ha attraversato il Polo Nord, che ha fatto oltre 2000 chilometri. Quando? Era il sogno della sua vita. La settimana scorsa, mi sembra. Oh, ma tutti quelli hanno fatto tutte queste grandi imprese tutte la settimana scorsa. È stata una settimana pazzesca per le grandi imprese. Stiamo scoprendo delle imprese straordinarie. L'australiano che ha fatto il giro del mondo, terminato proprio la settimana scorsa, questo sedicenne che ha fatto il giro del Polo Nord. Beh, complimenti. Antonio, anche questa era bella come possibile risposta, anzi come possibile personaggio della settimana, molto si può fare, però ma non è lui. Non è lui neanche in questo caso. Grazie di aver chiamato. Facciamo però il traffico, poi ancora con gli ascoltatori l'800 24 00 24, tra un attimo. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo con Renata che ci chiama da Monza. Buongiorno Renata. Buongiorno. Buongiorno. Su cosa voleva intervenire? Sul fatto della settimana. Il personaggio, sì. Che secondo me è il samaritano. Cioè quello che gratuitamente ha donato un organo per... Sì. Gratuitamente mi ha stupito. Sì, è una notizia abbastanza straordinaria. Il primo trapianto da samaritano realizzato forse al mondo, però in Italia. E in effetti era una notizia notevole. E anche il samaritano avrebbe potuto essere un personaggio, ma cara Renata, non era lui. Oggi ci stanno superando tutti, sì. Ci stanno raccontando delle imprese incredibili. È bello però perché stanno molto venendo bello. Fuori tante cose sì. Belle che sono venute questa settimana. Grazie Renata, 800 24 00 24. Carlo, aggiungiamo un indizio. Rendiamo più facile la vita degli ascoltatori. Esatto, meglio, precisando l'indizio che abbiamo già dato, vi do un altro pezzo di indizio. Il nostro personaggio ha compiuto un'impresa per la sua età. Quindi l'impresa di per sé non è l'attraversamento del mondo a piedi con la canoa naufragando e poi mangiando solamente pesce crudo e donando un rene, ma è un'impresa incredibile per l'età che ha il nostro personaggio. Sì, mi verrebbe voglia di aggiungere qualcosa per renderla un po' più facile. Aggiungo qualcosa, dai, stiamo in Italia, diciamo che stiamo anche un po' in Italia, restringiamo un po' il campo, è bello così perché sono quei personaggi che se non ne parliamo noi diciamo anche così, no? Ecco, siamo contenti che sei italiano. Siamo contenti che sei italiano. Non abbiamo più ascoltatori. Adesso invece è il momento di raccontare un'altra impresa straordinaria compiuta da una persona che andiamo a incontrare tra poco, un insegnante. Io credevo d'essere Dio, andavo a scuola dritto, felice e sicuro di non chiedere mai. Poi un giorno arrivò lei che mise in discussione la mia religione, financo me stesso. Io le dicevo, sai che cosa ti farei se fossi un milionario, champagne e gioielli, ma sono ridotto con l'acqua alla gola. Sono precario, lo so, quello che posso darti amore ti darò, senza brillanti, tanti rimpianti, bevendo vino con gli amici scorderò. Sono precario, quello che posso darti amore non lo so, senza contanti, tanti rimpianti, fumando a casa con gli amici scorderò. Eccoci qua, allora l'impresa straordinaria in sé per sé non è un'impresa, oddio, di questi tempi essere assunti, avere un contratto a tempo indeterminato sta diventando quasi un'impresa straordinaria, ma la storia di Elena Di Bartolomeo, buongiorno, la salutiamo intanto. Buongiorno, buona domenica. Buona domenica, è questa, lei è diventata insegnante, professoressa della scuola dell'infanzia, quindi maestra possiamo dire, dopo un lunghissimo precariato e dopo una causa vinta, 16 anni, vero? Sì, 16 anni di precariato, sì. Una vita da precaria storica. Una vita da precaria, sì, sono una delle precarie storiche. Però sì. La sentiamo di ottimo umore, era di ottimo umore anche durante questi 16 anni o è di ottimo umore dall'altro ieri? No, beh, sono un po' di ottimo, l'umore è migliorato sicuramente. Bene, bene. Però sono sempre stata abbastanza positiva. Fiduciosa. Ha lottato, sì, evidentemente il buon umore l'ha tenuta, come dire, insomma, le ha dato la forza. Sì, ma mi anche. Aiuta anche il lavoro che faccio, lavorando con i bambini sei sempre di ottimo umore. Ah, beh, questo è vero. I bambini ti danno comunque gioia, allegria, è tanto da fare, quindi rimani sempre di buon umore. Una storia che nasce nel 1997 con l'inizio della tua carriera di insegnante, no Elena? Sì, sì. Io nel 97 sono andata a Bolzano a fare le mie prime supplenze. sono stata lì per 2 anni. Da dove venivi? Poi sono arrivata da Salerno, dalla provincia di Salerno, da Pagani. Quindi proprio la storia classica quasi dell'emigrante, insomma, dal sud al nord per fare l'insegnante. La valigia di cartone. Solo la valigia di cartone. Poi tutto c'era così. Tutto per il resto. Infatti, ma io da Pagani mi sono trasferita a Passo del Brennero, cioè proprio alla fine dell'Italia, per fare la mia prima supplenza, e sono poi rimasta lì a Bolzano a girovagare un po' tra posti stupendi, Brunico, San Candido, cioè zone comunque bellissime, Dubbiaco. Poi dopo nel 2000 sono arrivata in Veneto, a Vicenza, nell'Alto Vicentino, e ci sono stata per 10 anni, finché poi mi sono trasferita a Treviso. Fino a che? Nel 2010 mi sono trasferita a Treviso. Sì. E nel 2010, quando poi sono arrivata qua a Treviso, facendo 2 chiacchiere con un collega online, Marco Bencivenga, così si parlò di una legge, di una direttiva normativa, sì, direttiva europea, dove si diceva che per quanto riguarda la pubblica amministrazione vigeva la regola che dopo 36 mesi di lavoro dovevano stabilizzarti, quindi darti il ruolo nel mio caso. Sì. Che è il caso che è successo a tanti, fra l'altro, altri precari. Poi adesso allarghiamo il discorso, perché è appunto una norma nella quale potevano ricadere tante persone. Tu questa cosa lì per lì te la sei addirittura dimenticata? L'ho dimenticata dopo qualche mese. Questo è successo nel mese di ottobre-novembre. Dopo qualche mese mi è capitato di trovare un pezzetto di giornale strappato dove c'era questa normativa e veniva spiegata in maniera spicciola. Ho preso questo pezzetto di giornale. Ma dove l'ha trovato questo pezzetto di giornale? Destino. Perché è interessante. Era per strada. Dire è il tuo momento, devi farcela, devi lottare. No, mi piace molto perché la sua già mi sembra una storia veramente esemplare. Già il fatto di partire da Salerno e arrivare a Passo del Brennero, che sembra proprio scritto da uno sceneggiatore, direi. E poi trova per terra un pezzettino di carta di giornale con questa norma. Mi scusi, l'ho interrotta. Vabbè, no, figurati. Con questa norma l'ho presa, ho detto allora questo è il momento di vedere cosa fare. Sono andata dalle mie legali, Antonella Borelli e Silvia Colucci, 2 donne in gamba, perché al momento sono venute con me, mi hanno accompagnata in questo tragitto, pur sapendo che poteva essere un salto nel vuoto, perché era un qualcosa che nessuno ancora aveva cominciato a chiedere. Quindi, cioè a far partire l'iter per avere l'assunzione a tempo indeterminato. Sì. Sì, abbiamo fatto questa richiesta qui in tempo indeterminato, ricostruzione di carriera, perché comunque i miei incarichi andavano da settembre a giugno. Sì. Tanti venivano chiusi a giugno. Beh, come funziona la scuola, insomma, normalmente. Come tanti, infatti. E abbiamo così cominciato un iter nel 2012, nel 2012 a Treviso. E così. Vabbè, insomma, un iter legale, piano piano è andato avanti. Naturalmente c'erano stati passaggi importanti per te personalmente, però poi si arriva al punto in cui arriva la sentenza che ti dà ragione. Paf. Sono stata anche aiutata da una sentenza della Corte di Giustizia Europea, della Comunità Europea, che ha dichiarato l'illegittimità dei contratti a termine, perché nella scuola, secondo l'Europa, non deve esistere una cosa del genere, fino a che il 20 marzo, grazie a questa sentenza, che tra l'altro è molto recente, se non sbaglio, è del 2014. Sì, è del 26 novembre 2014. Ah, ecco, infatti, perché me la ricordo. Quindi, e io ho la memoria di un pesce rosso. A me va. Prego. Niente, fino a che poi il 20 marzo il giudice mi ha riconosciuto, perché poi da premettere che io nel 2013, il primo settembre, sono entrata in ruolo, ma per graduatoria. Sì. Sono riuscita ad entrare in ruolo per graduatoria. Quindi il 20 marzo il giudice Galli ha riconosciuto che i contratti a tempo determinato con cui mi assumevano ogni anno da settembre a giugno erano illegittimi. E visto che quelle non erano supplenze saltuarie, ma era una cosa sistematica, un impiego sistematico, ti ha riconosciuto questa cosa qua. E hai festeggiato? Cosa hai fatto quando è arrivata questa sentenza? Sì, abbiamo festeggiato. Sì, vabbè, io comunque adesso sono ancora fuori, lontana da casa, però cioè, c'erano comunque i miei avvocati, poi sono venuti i miei parenti, ma perché c'era Pasqua imminente, e giustamente ho festeggiato la mia... Sì, perché insomma questa, comunque... questa vicenda di Elena, cioè, è la vicenda anche di tanti altri precari. L'abbiamo sentito chissà quante volte al telegiornale parlare purtroppo dei precari della scuola, precari non solo della scuola. E, è un tema anche molto spinoso questo di, dei precari, della flessibilità. Esista la buona scuola. Insomma, adesso per esempio c'è un provvedimento che mira a stabilizzare molti tuoi colleghi precari della scuola, quindi diciamo non, a sanare un po' questa situazione. Com'è stata com'è stata questa vita da precaria? Cioè, ti sentivi realmente instabile? È stato difficile? Sì, comunque è difficile perché vabbè, ok, lavoro, però quando a giugno poi ti licenziano non sai mai se a settembre verrai richiamata, certo. Dove vai a lavorare, neanche dove, non passi mai diciamo delle belle vacanze, ecco. No, infatti, perché poi non sai mai se ti chiamano, se in quale scuola vai, se è vicino casa, se è lontano da casa. Qual è la distanza più grande da casa che a parte il trasferimento da Salerno, quello sì. Ma no, una volta che ti sei trasferita in un luogo, hai fatto una supplenza e l'anno dopo ti hanno mandato lontano. Per esempio, quanti chilometri? Allora, una volta abitavo a Valdagno, in provincia di Vicenza, e facevo 75 chilometri all'andata, 75 al ritorno. In macchina o in treno? In macchina. Quindi, insomma, non c'erano i collegamenti, cioè, è stata dura, però anche quello l'ho superato. Per cui la prima ora, perché l'inizio della scuola materna è abbastanza presto, no? Che ora inizia alle 7:30, forse il primo ingresso. No, alle 8. Dalle 8 alle 4. Quindi sì, per essere lì alle 8 ti alzavi alle, che ne so, alle 5. Alle 5:30, alle 6:15 partivo e alle 8 ero lì. E la sera tornavi a casa stanchina. Distrutta, spalmata come la Nutella praticamente. A correggere i compiti. Sì. No, perché all'infanzia per fortuna non c'è, giusto, però vero, comunque vero. Dovevi programmare il lavoro per il giorno dopo, non è che torni a casa e finisce tutto, è lì che si comincia poi, perché il giorno dopo tu devi trovare qualcosa di pronto. Certo. Con bambini così piccoli non puoi improvvisare. Certo. Devi avere qualcosa di fatto. Insomma, la festa vera con la famiglia devi ancora farla, però diciamo che un primo round di festeggiamenti l'hai già fatto. A noi piaceva l'idea di raccontare la storia di una persona che ha raggiunto un traguardo personale importante nel mondo della scuola dopo anni di precariato. Avete sentito, insomma, una vita non facile. Sicuramente non è un caso isolato, ce ne sono tanti. Magari qualcuno all'ascolto dirà, ma anch'io. Ma quindi tutti quelli che lavorano con le tue stesse caratteristiche possono fare questa richiesta e verranno assunte, è così? Sì, almeno. Sì, ma infatti su questo c'è stato un provvedimento del governo proprio a sanare anche, diciamo, come dire, la possibilità che ci fossero altre cause prima di aprire e chiudere altre cause. Ora non mi ricordo più la cifra, forse tu lo sai, del numero di precari che il governo intende stabilizzare nel mondo della scuola. Credo che sia un po' una risposta anche al tuo caso. E tu sei stata un po' una pioniera. Intanto grazie Elena Di Bartolomeo. Grazie a voi. Grazie per essere stata con noi. Buona scuola. Buona domenica. Papà senza santi da pregare, si può fare. E da avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Eccoci qua di nuovo in compagnia di qualche ascoltatore che ci chiama. Claudio da Milano, per esempio. Buongiorno e buona domenica, Claudio. Buongiorno a voi e buona domenica. Buongiorno. Cosa volevi intervenire, Claudio? Allora, volevo provare a dare la soluzione del personaggio della settimana. Vai, vediamo. Siamo tutto ricchi. Allora, potrebbe, non ricordo il nome, ricordo di averlo letto sul vostro sito internet, tra l'altro, di Radio 24. Ottimo. La signorina non più giovane che ha fatto i 1500 metri in vasca corta. La vecchina, diciamo, era ammesso perché era detto in tono cattivo. Una signora anziana che ha nuotato 1500 metri in vasca corta. Quanti anni aveva sta signora? Vediamo un po', Carlo. Non può essere. Avrebbe potuto essere, ma non era, caro Claudio. Carissimo, anche se siamo in qualche modo vicini, grazie per averci chiamato. Grazie. Grazie mille. L'età non l'abbiamo trovata. Quanti anni aveva sta donna? Redazione. Perché noi volevi sapere se ne aveva di più o di meno del nostro personaggio. Esatto, per capire se siamo andati più in là o più in qua. Wanda da Torino, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Volete sapere sì. quello che ho pensato? Sì. Ho pensato a Obama che ha fatto pace con Cuba dopo 50 anni. Cavolo, come no? È una super notizia, una super impresa anche questa. L'età importante direi che è quella di Raul Castro, ci poteva stare, infatti era un po' un depistaggio a cui avevamo pensato, non avevamo scelto questa, era talmente diciamo in prima pagina proprio ieri che ci sembrava troppo centrale, troppo come facile, notizia, però troppo era facile. Un super si può fare anche questo, quindi grazie Wanda. Grazie mille. Grazie davvero. Maria Rosaria da Milano. Pronto? Pronto. Pronto. Buongiorno. Buongiorno. Volevo dare la risposta. Prego. È la regina Elisabetta. La regina Elisabetta. Qual è la notizia legata alla regina Elisabetta? La notizia è che pur avendo 88 anni va ancora a cavallo, fa delle lunghe passeggiate a quell'età. Sì, sì, sì. Ci sta tutto, ma non è il personaggio che avevamo pensato. Non è lei, tra l'altro. È un'impresa più emozionante. È un po' più emozionante, sì, un pochino più difficile anche forse, vista l'età. Diciamo, siamo a livello, ci siamo informati della nonnina nuotatrice che credo fosse addirittura ultracentenaria e ha fatto i 1500 metri in vasca. Però il nostro, diciamo che ha compiuto un'impresa forse gli più complessa. Forse gli accoppiamo, accoppiamo. Cioè facciamo di loro una coppia, non vorrei mai che si fosse sentito male. 800 24 00 24, tra poco con nuove risposte al personaggio della settimana e i vostri interventi, tra poco. Eccoci qua che ci catapultiamo direttamente a un appuntamento che avviene a Torino domani, il summit delle forze di polizia armate LGBT. Dillo tu, cos'è LGBT, Carlo? È la sigla che sta per lesbiche, gay, bisessuali e transessuali. In realtà poi di solito si aggiunge anche la I, che è intersessuali, LGBTI. A volte è LGBTQI perché c'è anche queer. Quante ce ne sono da sapere? La questione della sigla è un problema secondo me, perché penso come sempre che finché ci chiameremo con una sigla che ricorda più un codice fiscale sarà molto difficile cambiare le cose. Ma Polis ci sta provando e quindi sentiamo. Ecco qua Simonetta Moro, buongiorno, buona domenica Simonetta. Buongiorno, buona domenica a voi. Buongiorno. Lei è presidente di Polis Aperta, che è l'associazione che insomma riunisce, ce lo dica lei Simonetta? Sì, riunisce appartenenti a diverse forze di polizia, quindi polizia di Stato, sì. Carabinieri, Guardia di Finanza e tutte le polizie locali, municipali dei vari comuni d'Italia. E anche militari, quindi appartenenti alle forze armate. Anche i pompieri? Sì, abbiamo anche rappresentanti dei vigili del fuoco. Mi scusi, era una domanda un po' gay fatta da me giustamente per questo. Senta Simonetta, insomma, voi vi trovate veramente a combattere il tabù del tabù, non so come dire, cioè sì. Già affrontare il tema dell'omosessualità, il tema dei diritti, a volte sta diventando un'impresa. In questo paese di sicuro è un'impresa. Però voi all'interno delle forze di polizia, come dire, è veramente un tabù. Già il fatto che c'è un'associazione come la vostra, io per esempio non lo sapevo, non lo immaginavo. Sì, infatti siamo, nonostante festeggiamo i nostri primi 10 anni, siamo ancora poco conosciuti perché siamo partiti in maniera un po' carbonara, cioè diciamo che l'associazione è nata su impulso di una rete europea, quindi di colleghi stranieri che ci hanno imposto di formare un'associazione di questo tipo anche per l'Italia. e i primi che sono partiti non erano visibili, non avevano fatto il loro coming out, e quindi sì. I primi anni. Beh, ma perché immagino che sia veramente difficilissimo per qualcuno appartenente alle forze dell'ordine di dichiararsi, giusto? Sì, è un ambiente di lavoro spesso caratterizzato, insomma, da parecchio machismo, quindi uscire fuori, soprattutto per gli uomini, ma anche per le donne, perché già per le donne è difficile appartenere a un corpo di polizia dove, diciamo, sono caratterizzati da essere maschi e diciamo che ma essere addirittura un tempo un motivo quasi per essere esclusi. No, è questo, ricordiamo che in Italia fino a poco tempo fa il fatto di essere omosessuali era uno dei motivi per cui non si faceva il servizio militare. Sì, poteva essere causa di esclusione, comunque diciamo che anche in un regolamento medico militare si parlava ancora di omosessualità fino a pochi anni fa. Ma invece mi scusi la domanda forse ignorante, invece adesso uno può essere dichiaratamente omosessuale, quindi aver fatto il proprio coming out e fare il poliziotto o fare il militare? Sì, c'è, cioè, allora, poliziotto, sì, c'era un problema in ambito militare. Perché negli Stati Uniti c'era la vecchia regola don't ask, don't tell, che è stata, diciamo, tolta. Invece in Italia è possibile, cioè uno don't ask, don't tell era... Cioè, non domandare, non esattamente. Dire. Esattamente. Invece mi chiedevo se in Italia era tranquilla questa... Cioè se uno appunto può fare coming out e entrare nell'esercito. Allora, a livello legale sì, però sicuramente ci possono essere ancora dei problemi. Ci sono di sicuro dei grossi problemi. Indiretti, cioè diciamo che poi le persone possono essere, sapendo quella che, venendo a conoscenza di quella caratteristica, possono poi trovare altri modi per escluderle. Sì. Ma ecco, oggi in un paese come il nostro, come se la passa, che so, un poliziotto omosessuale nella sua vita di lavoro quotidiano? La domanda è questa, immagino bene, nel senso che i colleghi saranno persone normali, i poliziotti sono persone normalissime, quindi accetteranno tranquillamente. Forse nei rapporti con i ranghi, con i superiori o con l'istituzione in sé ci sono delle difficoltà? Quali sono le realtà che registrate voi? Allora, ma paradossalmente ci sono meno problemi, diciamo, rispetto ai propri, cioè diciamo che Polizia di Stato e Carabinieri, grazie al capo della Polizia Manganelli, che poi purtroppo è venuto a mancare, hanno creato un osservatorio contro le discriminazioni, in cui il loro impegno era anche quello di combattere i crimini ai danni delle persone LGBT, ma anche verificare all'interno della polizia che non ci fossero discriminazioni nei confronti di colleghi e colleghe omosessuali. Quindi diciamo che dall'alto c'è un occhio di riguardo e si è partiti anche con una formazione specifica nelle scuole di polizia. A livello di pari, di colleghi, diciamo di ambito di lavoro quotidiano, ci sono le difficoltà che qualsiasi persona omosessuale, transessuale affronta nel proprio luogo lavorativo, cioè rimane nascosto, certo, il lunedì. Sì. Non può parlare liberamente di quello che ha fatto nel weekend, cioè la propria vita sociale. Cioè, i tabù sono un po' quelli che ci sono magari anche in altri posti di lavoro, certo. Normali, anche non la polizia. Ma quanti siete invece associati a Polis? Quante i numeri anche di questo, diciamo, di questo fenomeno, come vogliamo chiamarlo, di omosessualità dentro le forze dell'ordine? Che ripeto, è veramente il tabù del tabù. Sì, allora, Polis Aperta, cioè rispetto ai numeri reali, conta pochissimi soci, perché poi i colleghi hanno paura anche che iscrivendosi si possa dire troppo allo scoperto. Risalire alla propria omosessualità, anche se noi garantiamo la privacy, però... Cioè, quindi in realtà voi aiutate molto più persone di quelle che sono iscritte, come avviene di solito per questo tipo di associazioni. Abbiamo avuto e abbiamo contatti con colleghi che ci chiedono pareri, che vogliono, insomma, conoscerci, però poi sotto forma di anonimato. Ma quanti sono invece, se si può avere una stima, diciamo, i poliziotti o gli appartenenti alle forze dell'ordine apertamente gay in Italia? Pochissimi. Se, secondo me. Ma nel senso di 3, nel senso di 30, nel senso di 1000? Allora, sicuramente ci saranno colleghi dichiarati che, di cui noi non sappiamo, perché sì, diciamo certo, che siamo in tantissimi, che noi conosciamo, secondo me, una decina, insomma. Che diciamo, sono gli attivisti dell'associazione certo, Polis, siete una decina, perché un conto sì, poi è esserlo, vivere l'omosessualità all'interno delle forze dell'ordine, un conto è dichiararsi, un conto poi addirittura militare in un'associazione certo, che apertamente fa questo lavoro, giustamente, perché cerca di portare alla luce, di dare una mano anche a chi magari lo vive con difficoltà. Però diciamo, i militanti non sono molti, certo, questo c'è da aspettarsi. Ma esposti mediaticamente saremo una decina, ci sforziamo però di insomma pubblicizzare i nostri coming out positivi, con l'augurio che possano essere di ispirazione. Certo, certo. No, ma le spiego perché le ho fatto questa domanda, perché io penso che facciate un lavoro importantissimo, perché credo che troppe volte, anche per un omosessuale, questa immagine che gli omosessuali nel mondo, in Italia o per esempio in televisione, siano sempre per forza o degli stilisti eccentrici o delle persone molto sensibili, ha un po' stufato, e quindi mi sembra molto importante invece far vedere che gli omosessuali sono anche il nostro commercialista, gente normale, il nostro poliziotto, il carabiniere, il vigile, esatto. Quindi va bene, intanto vi faccio i complimenti per il tipo di lavoro che fate. Viva i poliziotti omosessuali, diciamo. Grazie. Simonetta, noi che dire, intanto ci salutiamo qua, ci fa piacere risentirti presto per avere aggiornamenti su questa storia, e intanto diamo l'appuntamento per domani a Torino. Domani a Torino, presso la Sala Bobbio in via Corte d'Appello, avremo per tutta la giornata un convegno, la partecipazione è libera, può venire chiunque, il tema è forze di polizia contro omofobia e transfobia. Parteciperà l'onorevole Giovanna Martelli, che è la consigliera di Renzi in materia di pari opportunità. E ieri c'era anche Daniele Viotti, giusto? L'onorevole Daniele Viotti, sì, che è un europarlamentare. Che è copresidente insieme alla Lunacek del gruppo interparlamentare LGBT, e tra l'altro Ulrike Lunacek, che è anche vicepresidente proprio del Parlamento Europeo, ci ha inviato un messaggio che okay, proietteremo domani. Benissimo. Ottimo. Grazie Simonetta. Grazie Moro. Mille. Grazie mille. Grazie. Polis aperta, questa è l'associazione 800240024, non è che ci sia molto tempo per intervenire in diretta, per commentare quello che avete appena sentito, questa storia, insomma, il modo in cui sta venendo fuori il tema dell'omosessualità dentro le forze dell'ordine. Purtroppo Simonetta prima non poteva e quindi abbiamo dovuto metterla in questo orario, ma sarebbe stato bello poi sentire anche l'intervento degli ascoltatori su questo. C'è ma il potete traffico. Chiamarci sabato prossimo e continuare a parlarne con me. Sì, esatto, se avete buona memoria, perché passerà una settimana. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, abbiamo Andrea che ci chiama da Sassari. Buongiorno Andrea. Buongiorno a voi. Prego. Come va? Tutto bene? Sì, sì, benissimo Andrea, tu? Ecco, sì, bene, grazie. Io partecipo per il personaggio misterioso. Sì. Posso dirlo? Certo. Sì, certo. Modesto Melis, Ogliastrino. Un signore di 95 anni si è lanciato col paracadute. Eccolo. No, speravamo negli applausi. Speravamo negli applausi, gli applausi non arrivano, ma li facciamo noi. La notizia. Ah, grazie. È grazie, perfetto. È perfetto. Sì, no, bravo tu, Andrea. Beh, da Sassa diciamo che eri avvantaggiato, esatto, perché il personaggio è sardo e quindi diciamo sì, lì da voi ha avuto un pochino più di risonanza questa notizia. Un signore ma... che sì. Prego, sì, prego. Sì, sì, infatti lui è ogliastrino, quindi mi ha rapito subito due o tre tracce che avete lanciato. E sì. Quindi, ricordo io velocissimamente la storia. Modesto Melis è un ex deportato, sì, a Mauthausen. La sua passione per, sì, i lanci col paracadute era stata interrotta all'epoca, appunto, del suo internamento nel campo di concentramento nel lager austriaco. Poi c'era tornato l'anno scorso, aveva festeggiato i 70 anni da quell'episodio e per l'occasione ha fatto un lancio col paracadute a 95 anni. Straordinario, Modesto Melis. Grazie Andrea da Sassari, vinci i biglietti per il concerto di Enrico Ruggeri. Grazie mille, buona domenica. E questo è così. Adesso è il momento di Taddia. Vai. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere. Ciao Federico, buona domenica. Buona domenica a voi, eccoci qua. Buongiorno. Le notizie, le storie, le imprese grandi e piccole che cercano fondi in rete per realizzare il loro sogno. La prima segnalazione è sicuramente il crowdfunding della settimana. Perché? Allora, sto parlando del convento dei frati cappuccini di Monterosso. Siamo sulle Cinque Terre, c'è questo luogo che è bellissimo. Questa la so anch'io, è bellissima. Luogo più amato d'Italia, per il censimento FAI del 2014. 2011, una tremenda alluvione, quella che ha colpito le Cinque Terre, ha devastato il convento, ma non solo, nel 2013 una nuova frana ha diviso in due il paese e il convento è rimasto fortemente danneggiato, si parla di 500.000 euro, questo è quello che serve per restaurare il convento. Padre Renato, che è il rettore, cosa ha fatto? Ha noleggiato un drone questa settimana, ha fatto delle immagini spettacolari dall'alto del convento per vedere questa è la bellezza che stiamo rischiando di perdere e ha lanciato il crowdfunding sulla piattaforma buonacausa.org. 500.000 euro è il traguardo, un traguardo notevole, però ha fatto veramente tanto questo in volo sul cuore, questo è il titolo del video, ha veramente aperto il cuore, la mente e anche qualche portafoglio, perché insomma stanno già arrivando i primi fondi. Mi sembra una bella storia tra passato e futuro, no? L'utilizzo sano e divergente delle nuove tecnologie. Insomma, i frati sono tosti quando sì. Hanno proprio detto ci rimbocchiamo le maniche del nostro saio. Siamo curiosi sulle ricompense, se c'è il cilicio. Sai che no, non c'è, questo giro è senza ricompense, nel senso che il sottotesto è cosa volete di più anche, bellezza, pace, siamo qui che preghiamo anche per magari, voi e volete magari qualche anche assoluzione, la ricompensa. Beh, qualche esatto, cosa così. O una stanza, per esempio. Esatto, perché appunto è il luogo che si può visitare, luogo di preghiera e riflessione, quindi buonacausa.org. C'è anche il video che vi consiglio di vedere perché è veramente bello. Bene, la seconda segnalazione, abbiamo 30 secondi un ancora? Minuto, sì. Sì. Un minuto, perfetto. Con un minuto vi porto invece a un progetto di costruzione di un parco giochi in una zona degradata di Lecce. Allora, secondo una statistica di Foggia, scusate, secondo una statistica, Foggia è al 105esimo posto della classifica nazionale sulla qualità della vita su 107 province, quindi situazione degradata, in non altissima anni, classifica. Lì i genitori insieme ai ragazzi di una scuola dell'Istituto Parisi De Santix hanno detto va bene, prendiamo in mano noi la situazione, hanno risistemato un piccolo parco, sono 200 metri quadrati e adesso hanno lanciato un crowdfunding perché vogliono acquistare le attrezzature. Allora dobbiamo chiudere Federico, però vi ricordo che i link li trovate sulla pagina Si può fare dentro il sito di Radio 24. Grazie Federico Taddia. Ciao, grazie, Fede, grazie a Carmelo Ruscella, Lorenzo Respoli, Miriam Lucchetti, Claudia Schiattone, un saluto da Alessio Maurizio e da Carlo Gabardini. Sabato prossimo, ciao ciao.